Greetings from the bylands of Ontario East. Behold, Chuck D with DMC and Wild Wild Women. Blossoms of feminine revolution, spreading positivity and light. Every day a woman's day, every day a new fight. But we play and we play, we're doing okay, we're doing okay. Play and we play. Ore 19:08 secondi, martedì 17 dicembre, sta per iniziare una doppia puntata tra Likewise e Note, Cose e Città per raccontarvi il meglio dei dischi usciti in quest'anno. Ciao a tutte! Ciao! E con, diciamo, l'ultimo momento che ci contraddistingue, ciao Note, Cose e Città! Ti sento pochissimo, ti sento pochissimo, perché stiamo aggiustando il mic, perché mi sa che quello è un po' più dietro, quindi, e noi vogliamo assolutamente avanti. Eccoti. Eccomi, ci sono? Ora ci sei. Io non mi sento, però vabbè, sentite che ci sono. Allora, intanto fatemi dire, è veramente un piacere essere qui. È un sogno che si realizza da quando veramente, da quando ero bambino. Cominciamo subito con gli insulti. Ti ringrazio davvero. Allora, secondo me il tuo microfono dobbiamo un attimo sistemarlo. Ma è staccato. Il tuo microfono è staccato, quindi è difficile che ti si possa sentire. Allora, metti un po' di musica. Mettiamo un po' di delle nostre sigle e ritorniamo subito in voce. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm not upset yet. What you upset yet? On guard trip, play yet. Allora, Reload 19:09, sta per iniziare la doppia puntata di Likewise, Note, Cose e Città con i best di quest'anno. Ci siamo tutte adesso. Eccomi, mi hanno attaccato al microfono. Io comunque continuo a non sentirmi. Ti volevo boicottare, ma non ho funzionato. Ma te prima dici che è alto, poi dici che è basso. Io non mi sento assolutamente. Nemmeno adesso. Manco per niente. Però ci sei, purtroppo. Però ci sei. Così. Allora, intanto dicevo, perché non so se hai capito, per me è un sogno che si avvera. Questa è una cosa che fin da bambino io immaginavo un giorno di poter fare, quindi vi ringrazio e vi volevo chiedere se possiamo darci del lei, visto che dobbiamo passare. No, per possiamo insieme. Darci del lei. Diciamo anche che, insomma, con noi e con la sua playlist, soprattutto c'è anche il tuo collega che in questo momento non c'è. Non sappiamo se è in missione speciale o se sta aiutando Babbo Natale a fare i pacchi. Probabilmente noi lo salutiamo. Fab, ci manchi tanto, soprattutto abbiamo a me. Abbiamo messo un un orsetto in ceramica al suo posto, è molto carino, no? È molto carino, devo dire. Bello. Non parla però. Non parla. Ecco, è questo un po'. E parleremo invece noi per lui. Ben trovato a tutti e a tutti. Quindi, visto che la puntata è super densa e abbiamo tutti, dopo varie fatiche, direi. Anche fame. Io ho fame. Anche fame, c'è anche chi si è stressato molto a fare questa playlist. No, io lo voglio dire subito. Intanto vorrei chiedervi com'è stato quest'anno musicalmente, cioè ce lo possiamo dire un attimo. E seconda cosa vorrei dire basta, io non faccio mai più il best dell'anno perché per me è troppo stressante. Certo che è stressante. Quindi io, questo è l'ultimo, sappiatelo, è l'ultimo best che farò con voi. Allora, com'è stato questo 2024 musicalmente? Ma secondo me è stato un buon anno. Mm. È stato un buon anno anche perché, tra l'altro, ho letto pochi giorni fa che in un solo mese del 2024 è uscita più musica che in tutto il 1998. E la notò. Una cosa quindi allucinante. È chiaro che con una produzione musicale così, insomma, escono pure tante tante cose belle. Per fortuna. Per quello che mi riguarda. E dai, parti con la tua selection. Senti, io partirei invece proprio con... Io non parto. Vai, vai. E neanche per le feste? No. Ah, ok. No, sì. Chissà. Ah, per le feste sì. Allora, io partirei proprio con la classifica di Fabio. Noi abbiamo fatto, adesso non so in realtà se anche voi avete utilizzato la stessa metodologia, perché qui non si poteva programmare niente, tutto doveva essere fatto in maniera assolutamente casuale. Comunque noi ci siamo preparati due top ten. Ok. E faremo ascoltare, per quello che ci riguarda, quattro brani dalla nostra top ten, non necessariamente il podio, però partiamo col numero 10 della classifica di Fabio, che è Kneecap. Il disco si chiama Fine Art, l'etichetta la Heavenly Records, e la data di uscita è il 14 giugno. Allora, il mio socio molto molto brillante ha preparato anche una piccola presentazione dei suoi brani, quindi vado a leggere. Kneecap vengono da Belfast, rappano in gaelico e amano suscitare polemiche. Il loro album Fine Art, il secondo a 6 anni dal precedente, è un concept interamente ambientato in un pub. È hip hop, ma con l'energia della musica tradizionale irlandese. In questo 2024 il trio ha anche partecipato alla scrittura e ha recitato in un film semi-autobiografico che si chiama Kneecap, con la partecipazione di Michael Fassbender, film che pochi giorni fa ha vinto ben 7 premi, tra cui miglior film al British Independent Film Awards. Per restare in tema vittoria, il 29 novembre il gruppo ha vinto la causa intentata contro il segretario di Stato britannico per le imprese e il commercio, che per le loro posizioni repubblicane, indipendentiste e antimonarchiche li aveva esclusi d'ufficio da un bando che metteva a disposizione 15.000 sterline per promuovere la musica degli artisti vincitori all'estero. E noi ci andiamo ad ascoltare la canzone che dà il titolo all'album. Loro sono i Kneecap e questa è Fine Art. Ashlum, not tar hugum le dochud swinchi, na jan analyser mochud linchi. My chair loves hoots, so I wish you could do a version for him, but PG. Nah. Send me it when you can. He's your number one fan. His first word for Coulter Land, so he understands all the tree cag on. He's only started knee skull and be sure. He just thinks you guys are lethal. I know he's a wee bit young, try to keep it from him, then I'll send my yeehaw. Cool guard, yes, show my new ghost redder. 40 odd breath smells like cedar. Try to talk business to me, which is in your teeth. Back at the glitter. Cap, it's problem shoot. Knuckle and shans, go chocolate lip. Stick a wee tune out just for the kids, cause my two ones, they love you the best. Oh, fuck shit, ways up, mess with the general, who too late to get pissed. Some me spunk every penny getting off of our test. There's no act, it's just the way it is, real shit. You'll find me in a snug of a dimly lit shit, run down pub. Face all smug in a place I love, seeing how fucked I can get on government funds. That's another paint done, already jumped solo Lauren Cullum. And up walks some random, standing over me, rapping one of my songs. My far shot here is problem, the call, not juggle that Jerry, the shocker and all. I can't try fat and a druggie, I bought this time, I rally me with you, what? Oh, here gonna minute that I call you a crane, a car who tossing the hustling with the blade, oh, and no fuck it, I rate to the tin, now you're crying on Twitter and that's a win-win. On the Nolan Show today, a mural of a burning police car and chance of get the Brits out. Yeah! This is Ireland 2022. Rapper Kneecap said a mural was unveiled as just a piece of fine art. Fine art. T.I. You say it needs more turkey, our lads. The color if you go with last but collapse. The kneecap, fucking curry, call a mark. So fear, wondering why we take ages to release music. We're always on stages, all over in different places, rocking balaclavas on our faces. You can love us or hate us, won't affect a bit of our wages. More merch, more drugs, less cops, more folks, more scummets and out on cases. You can love us or hate us, won't affect a bit of our wages. More merch, more drugs, less cops, more folks, more scum, more fine art. La classifica di Fabio la lascerei qua, al decimo posto, la lasciamo a fermentare. La lasciamo a fermentare, ok. Allora, sembra una partita tipo di poker, non so chi vincerà. Io. Probabilmente. A poker quando vuoi, davvero, eh. Allora, Likewise pure ha messo tantissima musica quest'anno come sempre. Alla fine lo sapete un po', chi ci ascolta lo sa, a me piace fare un po' di conti. E ho visto che abbiamo messo anche quest'anno circa 160 nuove uscite. Tra questi 169 uscite ci sono 25 EP. Tra questi 25 EP ci sono EP che ci sono piaciuti tantissimo e di cui abbiamo dibattuto tanto, diciamo, prima di finire queste classifiche per decidere un po' dove metterli e dove non metterli. Quindi questo poi si vedrà fra un po'. E anch'io ho fatto una sorta di top 10, anche se poi è stata molto labile, molto varia, penso fino a questo pomeriggio, quindi adesso rimarrà questa perché sarà immortalata dal podcast, per cui non la cambieremo più. Però diciamo che tra i primi 10 dischi di quest'anno ho messo Anna Butters, ho messo Kim Deal, ho messo Reina Tropical, ho messo Tierra Walk, ho messo Astrid Son, e poi magari più avanti vi racconterò qualcosa di queste di queste scelte. E al quinto posto però ho messo Lori Anderson, che non ha ovviamente bisogno di nessunissima presentazione, con un disco che è uscito il 30 agosto di quest'anno. Il disco si chiama Amelia. L'ho messo perché è un disco molto particolare, è quasi uno spoken word album. La storia, cioè l'album, racconta l'ultimo viaggio della pilota Amelia Earhart, che è precipitata nell'oceano e avvolta ancora dal mistero questa storia, perché il suo aereo non è mai stato ritrovato. Lori Anderson prende gli scritti, i racconti, gli appunti della pilota e ci scrive un disco raccontando questa sua ultima notte. Il disco è meraviglioso, io lo consiglio tantissimo, e adesso ci andiamo a sentire la canzone di cui non ho più il titolo, fatto che non ce vedo. Fine at Night. Los Angeles, watching the daredevil pilots do loop-de-loops up in the sky. And I knew then that I wanted to fly. Nothing below me, nothing above me. I'm flying, I'm free. Skimming the water, riding the waves, I dive down through the sky. I always knew I wanted to fly. Thank you. into the darkness. Turn off the headlights. Nothing below you, nothing above you. I'm flying, I'm free. Skimming the water. E torniamo in voce, sono le 19:22. Quella che state ascoltando è una puntata speciale di Likewise Note speciale con 3S di Note Cose e Città. E Likewise su Sensei. Hai ragione, è vero. Non è città. Bravo, non è come il giochino. No, è più morbido. È più morbido, bravissimo. È più morbido. E quindi, Fabio. Sì, Fabio. Ale. Ciao, Ale. Allora, vado. Alla prima parte della mia classifica, sì, però veramente. Dai. Allora, numero 10, Wand. È perché ci manca, capito? Quindi... Assolutamente. Numero 10, Wand, il titolo dell'album è Vertigo, è uscito il 26 luglio per Drag City. Numero 9, Idols, Tang, un disco che non ho trovato in tante classifiche, io l'ho ascoltato tanto, mi è piaciuto molto, 16 febbraio, Partisan Record. Numero 8, Mr. Kendrick Lamar, GNX, è uscito neanche un mese fa, 22 novembre, a sorpresa per la Interscope Records. Numero 7, Lefour James, da Londra, Magic Seats, l'etichetta è la Nighttime Stories, l'album è uscito l'8 novembre. E andiamo al mio primo ascolto, posizione numero 6, lei è Vera Sola, il disco è Pacemaker, è uscito il 2 febbraio per City Slang, è il secondo album, è arrivato a 5 anni dall'esordio, e al secolo lei è Danielle Aykroyd, classe 1989, è una figlia d'arte dell'attore Dan Aykroyd e dell'attrice Donna Dixon. Il disco ha richiesto parecchio tempo per essere realizzato, visto che è stato iniziato a Nashville nel 2019, ha coinvolto un sacco di musicisti, musicalmente è un sound fatto di rock, blues, country e folk, il tutto è spesso fuso con situazioni orchestrali di cui la stessa autrice ha scritto le parti, e pervade questa bellissima atmosfera un po' retro. È un album abbastanza cupo, c'è l'amore ma c'è anche tanta morte, tanto dolore e tanta sofferenza. Lei però ha una voce incredibile, mi piace moltissimo, e ci ascoltiamo una cover di Brenda Lee, una delle grandi star del country degli anni 50. Il brano che abbiamo scelto è A Desire Path. Bella sola. Cross the grass, say it's the sidewalk. Exit the window, swear it's the door. Bend down the ceiling, watch as I crawl along the floor. The floor. What you say, just get it together, and it's all okay. Piss on my back, tell me it's rain, then expect me to stay. But I've wasted nights waiting for the sun you said would rise. I've gone for days when the night would fall again. Tell me you love me, at least that's what you say. Swear all the things I know you did, they come from my head. You tell me you love me, so it must be okay. Sai, Ale, che mi spiace darti ragione, è una cosa che mi costa tantissimo, ma questo Immagino. Album è veramente uno dei più belli usciti nel 2024, quindi sono molto felice che tu l'abbia scelto. Sono contento, mi prendo la metà del merito insieme a Vera Sola. Allora, infatti sta anche nella mia vabbè, è vero, è facile dopo, ma che io l'ha detto lui. È facilissimo, però in realtà sono stata contenta che l'hai messa tu, così ho potuto mettere qualche un'altra, perché poi l'inghippo di stasera era: ci sono tantissimi dischi, ci sono tantissime artiste, abbiamo lasciato fuori dei nomi grandissimi, con molto dolore molto dolore, perché vabbè, un po' pensavo no, che se ci avanza tempo alla fine possiamo fare l'elenco di quelli lasciati fuori. No, non ci avanzerà mai il tempo, non ci avanzerà mai, e quindi sì, Vera Sola ha un grandissimo album. Dona, allora, quindi, come dicevo, l'ultimo best of della mia vita comincia con una band che quest'anno ha tirato fuori il suo secondo album. Il secondo album sappiamo che è sempre un po' tricky, soprattutto quando il primo album è così esplosivo. Sto parlando della band di Brooklyn, Gustav, che è insomma una delle band degli ultimi anni che più ci ha entusiasmate. Package Part 2 è il titolo del nuovo album, come sapete art punk band di Brooklyn, insomma molta ecletticità sul palco e in tutto quello che fanno. Devo dire che vi racconto perché questo album mi è piaciuto molto, perché c'è tanto disagio e penso che sia per esempio il pezzo che ho scelto, che è Statue, che sentiremo fra pochissimo, racconta proprio anche il disagio rispetto stare sul palco, il disagio di stare davanti alle persone, il disagio di sentire e osservare le persone. Io ho sentito molto vicino al disagio che spesso provo io. Sì, sì, esatto, lo condivido moltissimo. Quindi la voce di Lydia Gemmill, le parole che ha scelto in questa canzone, ma in generale l'atmosfera di questo album mi è molto vicina proprio per questo. Quindi Statue, loro sono Gustav. I project. E rieccoci. Quindi... Ah, finisce così. Sì, va a botta. Vabbè, come buona traduzione di tradizione dei pezzi punk, post-punk, come piacciono punk me, art, diciamo. Come piacciono a noi. Riprendo con la classifica del socio? Assolutamente. Assolutamente. Allora, sì. Ci eravamo lasciati al numero 10 con Kneecap. Andiamo avanti. Numero 9. This is Lorelei. Box for Buddy. Box for Star dell'etichetta Double Double Whammy, uscito il 14 giugno. Numero 8, Fontaine's DC Romance, che ci ha intasato la nostra chat di WhatsApp perché era uscito il 23 agosto, stavamo in vacanza e ci siamo rimpallati giudizi e recensioni per l'etichetta XL Records e tra l'altro abbiamo visto, non so se c'eravate anche voi, il concerto dei Fontaine's. Io devo dire che non mi entusiasmano, non sono entusiasmano, molto impopolare su questa cosa. Ognuno è libero di sbagliare come vuole. Al settimo posto, il grande ritorno dei Cure, ma avremo modo di parlarne più avanti. Songs of a Lost World per la Universal, uscito il 1 di novembre. E andiamo all'ascolto del sesto posto. Lei è Mabe Fratti, l'album si chiama Sentir Che Non Sabes, è uscito per la Unheard of Hope il 28 giugno. Vado a leggere una brevissima presentazione. Anche la Quai se l'abbiamo messa. Lo Mabe so, Fratti. Stavamo qua quando l'avete messa. Il quarto disco della violoncellista guatemalteca, ma a distanza Città del Messico, il suo album più accessibile, In Sentir Che Non Sabes, titolo splendido per inciso. Mabe Fratti mette da parte l'avanguardia dei primi lavori per avvicinarsi a un pop tra virgolette che può ricordare quello di Arthur Russell. È un album cantato e suonato magnificamente, 13 canzoni che profumano di consacrazione per la musicista centroamericana. È tra le più belle sorprese di questo 2024. Noi ci ascoltiamo la seconda canzone del disco, che è Pantalla Azul. Lei è Mabe Fratti. Ejecutar el poder de fusionarte con tu sombra. Ideas automáticas. puestos elásticas. Dicen no es para tanto, pero no puedes diferenciar de dónde vino la pregunta. Deja tus problemas atrás, déjalos en tu hígado. No hay lección más que entender que todo se desordenó. Estoy en la razón, mientras los demás tienen otra historia. Vabbè, Fratti a Likewise, note cose città. Non abbiamo ricordato 0649-0750, non abbiamo ricordato il sito www.ondarossa.info, non abbiamo ricordato che è uscita la nuova Scarcerante, quindi accattatevilla dove volete, quando volete, passate qua e ve la diamo, passate alle nostre iniziative, in particolare quella del 31 dicembre sotto al carcere di Re Bibbia. Vedi, lo dovremmo invitare più spesso per fargli fare... No, ma io sono contento di fare questa trasmissione perché mi piace confrontarmi anche con chi viene dalla strada, poi insomma però andiamo troppo avanti. Simpatico veramente, vai. Allora andiamo avanti, sono le 19:38, siamo più o meno abbiamo fatto il primo giro di ascolti di questi album che in qualche modo hanno avuto un significato per noi in questo 2024. Devo dire che spulciando le varie classifiche in giro e le classifiche che abbiamo fatto noi, siamo degli outsider, quasi degli outsider. Ci sono pochissimi artisti che si ritrovano nelle classifiche dei grandi media mainstream o comunque tipo Pitchfork e varie altre. Mojo. A Mojo non ci ho guardato che classifica ha fatto, ma non mi fa impazzire. Allora io metterò un brano e lo metterò primo perché voglio bene alla mia socia, perché stava disperata, pensavo, senti, ho troppe canzoni, dove le metto, come le metto, vi odio, non lo voglio fare mai più. Ma l'ha detto infatti che non lo vuole fare mai più, mi ha detto ricordalo, perché gli ho detto guarda che anche l'anno scorso ho detto che non lo volevi fare mai più, poi ecco, sai che devi ricordarmi le cose. E invece eccoti di nuovo qua. Questo disco tra l'altro, perché io a un certo punto, visto che avevo fatto insomma la conta di tutti gli album nuovi che avevamo messo Likewise eccetera, io questo disco non me lo ritrovavo, quindi oggi tra l'altro ho rifatto un check, una sorta di prova del 9, ho guardato le nostre playlist, ho guardato insomma i vari appunti sulle playlist e non c'è. Allora ho scritto guarda che secondo me noi questo disco non l'abbiamo messo, non l'abbiamo messo perché il disco di Deici è uscito, Alligator Bites Never Hell, è uscito il 30 di agosto. Secondo me noi ci siamo convinte di averlo fatto ascoltare alla Likewise a tutte e a tutti quanti, invece non l'abbiamo fatto, ma lo facciamo stasera e lo rifaremo. Mi ha già detto assolutamente anche a gennaio, perché non possiamo resistere. Io di qua nei miei appunti non c'è il titolo del brano, quindi te lo lascio a te che ce l'hai davanti. Quindi lei è Doichi, Denial is a River. Hey, I thought it was all over. What's up, Doichi? Hey, girl. You know, it's been a little minute since you and I have had a chat. Has it really? Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go. Oh, wow. It's been a minute, yeah. I've been getting some calls. worried about you. Not worried. And I know that I was kind of that outlet for you, so. You were. Why don't you just tell me what's been going on? Okay. Remember old dude from 2019? Nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slipped back. Got my lick back, turned a nigga to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021. Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and... Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot. By a lot, you mean drugs? I wouldn't. Drugs? No, it's a... No? It's a natural plan. No, I'm not judging. I'm not an addict. I'm just saying. I don't think... You wanna talk about it? I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say? The shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I own. Oopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me, don't wanna have to turn a nigga guts in the soup game. Whoa. Okay, Dolce, we don't want to revert back into our old ways, so we're gonna try a breathing exercise, okay? All right, when I breathe, okay, you breathe, all right? Let's go. Oh, ma tutti i pezzi che terminano nel botto, però, non vale. È così. Noi siamo così, boom. Allora. Eccoti. Vai avanti. Indietro non possiamo. Ah, io stavo al sesto con Vera Sola e il prossimo ascolto è proprio la quinta posizione, perché in questo 2024 mi hai chiesto che anno musicale è stato l'anno del più bel ritorno discografico, senza ombra di dubbio, qui non c'è un giudizio personale, è così, perché il premio per miglior album, miglior gruppo che è tornato a fare un disco va senza ombra di dubbio, ripeto, ai Your. Sono passati 16 anni dal disco precedente, 413 Dream, allora partiamo dalla formazione, intanto vede il ritorno sul disco del tastierista Roger O'Donnell, uno che non ha mai trovato pace all'interno del gruppo, dall'87 entrate, uscite, rientrate, riuscite, ora il disco è stato pubblicato, quindi immagino che se ne riparla di nuovo, e l'esordio su un album Cure per il chitarrista Rivers Gabriels, che già dalla fine degli anni 90 collaborava con Robert Smith e soci e nei live, e poi dal 2012 è entrato ufficialmente nella band, però... E questo è appunto il primo album con lui in formazione. È un disco musicalmente dove regna il buio, non potrebbe essere diversamente, anche qui c'è un senso di cupezza che accompagna le liriche molto malinconiche sul tempo che passa, questo è un po' il filo conduttore su quello che ognuno di noi ha perso, e nel caso di Smith negli ultimi anni ha perso i genitori e il fratello. È un album che trovate un po' ovunque nella parte altissima di tante testate musicali, ed è giusto così, perché oltre a essere un grande ritorno, Songs of the Last War è un grandissimo album. Ho scelto la traccia forse più Cure di tutto il lavoro, si chiama A Fragile Think, e questa è The Cure. promising forever. And you say it won't be wrong, but it's too late now for me to just forget. I never thought I'd lead to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt, sad and lost. Yeah, every time you leave me is a lie. Promise me forever, you say it won't be wrong. There's something you can do to change your mind, she said. Nothing you can do but see yourself as a fragile thing. Nothing you can do now but stand again. Questa era l'inconfondibile, meravigliosa voce di un musicista che ormai ci ha accompagnato un po' per tutta la vita, se vuol dire, Ale, beh, sì, no? Voglia. Ormai, quindi, grande ritorno dei Cure, insomma, siamo contenti che tu l'abbia selezionato tra i tuoi best. Io devo dire che la mia selezione si è concentrata sulle band magari meno note, meno conosciute, anche insomma secondo me meritevoli. La prossima band, che è il mio secondo best del 2024, si chiama Drala. Il loro secondo album arriva a 5 anni di distanza dal primo. Infatti insomma si temeva ormai che fossero sparite dalla scena. Loro vengono da Leeds, diciamo Angel Tape, che è il titolo di quest'album, è un salto, un tuffo nella musica newyorkese della fine degli anni 70, insomma, per chi lo ha ascoltato spero che sia d'accordo con me. Lucille Brown, che è voce e chitarra di questa band, e i soci che l'accompagnano, in particolare il basso e il sax, che sono la parte melodica dei pezzi di questo, che compongono questi 34 minuti in questo album, secondo me strepitoso. Anche questo un po' inquietante, molto turbolento, lento, mi vengono in mente questi aggettivi per descriverlo, e secondo me un album da ascoltare. Loro sono Drala, il pezzo si chiama Zig Zag. We'll be right back. finita di botto. No, non fare quella faccia, dai, non si drammatico. Questa era Radio Onda Rossa, questa è il mashup note, cose, città, città senza la E, e likewise, insomma, che vi raccontano quelle che sono le nostre selezioni di quest'anno, insomma, le cose che ci hanno più emozionato. E ritorniamo alla playlist, insomma, al best, al classificone di Fabio, che non è qui in voce con noi. Al quinto posto della sua classifica c'è Adrian Lenke, Bright Future, uscito per la 4AD il 22 marzo di quest'anno. Insomma, un album bellissimo anche, sì, questo, da faticosissimo. Sta nei 50, anche nei miei 50 ci sta, non nei primi 10, però faticosissimo tenerlo fuori. Al quarto posto Kendrick Lamar con GNX, l'etichetta è la PG Lang e la Interscope. L'uscita è 22 novembre, è uscito, sì, insomma, un mese più, poco più di un mese fa, no, un po' poco meno, poco di un mese fa, un po' meno di un mese fa, e siamo al terzo posto della classifica di Fabio. Me lo leggo io il terzo posto. Facci terzo pure. Posto King Ganna, Big Swimmer, etichetta City Slang, data di uscita 31 maggio. Dunque, Big Swimmer, secondo album del duo di Liverpool, formato da Anna Merrick e Craig Whittall, è capace di trasmettere al tempo stesso esuberanza e inquietudine. Ascoltandolo non si può non restare rapiti dal suono delle chitarre, come è impossibile trovare riparo dalle tempeste elettriche scatenate nel mezzo di canzoni che partono spoglie come paesaggi autunnali. Madonna, che fotografia che mi ha fatto questo ragazzo, veramente incredibile. In due brani, tra cui la title track, c'è il contributo di Sharon Van Etten. Noi però vi facciamo ascoltare la canzone che chiude l'album, che è dedicata a un gigante della musica americana. Il brano e il gigante è John Prine, On the Radio. Loro sono King Ganna. I can't fight an answer, and I can't concentrate on much these days. There's room in the kitchen if you wanna join me. Listening to John Prine on the radio and feeling alright. The chicken's been in the oven now since quarter to five. Listening to John Prine. Ah, vedi questi finali morbidi. Questi finali morbidi che ci permettono di rientrare morbidamente, vedi? Nulla è lasciato al caso. Nulla è lasciato al caso. Questa era King Hannah, che tra l'altro appunto si sono esibite di recente qui a Roma, e comunque ero in giro in tour, quindi magari qualcuno di voi ha anche avuto modo di ascoltare il live. Se volete farcelo sapere, 0649 1750, credo non risponde nessuno. No, risponderemo. Se non siamo noi in voce, risponderemo. Esatto, non chiamate quando ci sono le canzoni. Questo è un consiglio che vi diamo, più che altro perché riusciamo a rispondervi. Diversamente, se ci sentite parlare, è molto complicato che possiamo rispondere a voi. Questo così in linea di massima, un po' per tutte e tutti. E se invece avete le vostre playlist di fine anno, mandatecele, non so, o noi a Note Cose Città, a noi le potete mandare a likewise@ondarossa.info, a Note Cose Città uguale a likewise.info, poi ce le gira. No, non però credo. Scrivetelo nell'oggetto da inoltrare a, mi raccomando, se no. Esatto, grazie. Perché sappiamo bene che comunque tutte e tutti gli appassionati di musica spesso a fine anno fanno questa cosa, anche fosse solo per gioco, come la stiamo facendo noi d'altra parte, non è che è una cosa seria. Purtroppo non ci pagano, non è una cosa dogmatica. Sul podio invece della mia top 10 dei dischi di quest'anno c'è un disco, e non è l'unico disco di jazz che c'è nella mia top 10, perché ce ne sono due. C'è appunto questo, che sta molto in alto, che è diciamo al secondo posto, perché il terzo c'era Vera Sola, ma visto che Ale l'ha messo nella sua di playlist, non lo faremo, appunto non l'ho messo nella mia. E invece io vi volevo far ascoltare questo disco che abbiamo ascoltato in realtà nell'autunno di Likewise, di Nala Sinepro, che si chiama Endless ed è uscito a settembre di quest'anno per la Warp Records. È il suo secondo album, l'abbiamo ascoltata alla Quest già sia col primo disco che con questo secondo. E nella mia playlist ci sono diversi album di jazz, perché è uno dei, insomma, dei generi che bazzico negli ultimi anni con più frequenza, anche se guarda, io c'avevo che stavano lì per entrare i Fire, che hanno fatto un bellissimo disco, e Collin Stenson. Infatti, no, citiamo così, se al popolo, certo, interessa. Esatto, certo. Lo diciamo, appunto, servono a questo, insomma, serve a questo il popolo. Il popolo è la top ten. E quindi ci sono anche Matt Herlitie, Mizu, Laura Misch, Amanda Whitening, Brittany Howard. E però questo disco di Nala Sinepro io l'ho scelto perché in realtà è un disco che secondo me è quasi magico. Nel senso che non lo so se è quella strana cosa un po' tra il mito e non del fatto dell'accordatura a 432 Hz. Questa leggenda che gira nel mondo della musica. Però è vero, almeno a me succede, che quando tu finisci di ascoltare questo disco ti senti in pace e completamente rilassato e sereno. Quindi, vero o non vero? Ma dici che c'è una... Non lo so, come funziona, quindi non lo so se è la suggestione, sai, tipo l'effetto che ti autosuggestioni su questa notizia che sai, e quindi... Però l'ho riascoltato anche facendo la playlist. E ha funzionato. Eh sì, ogni volta che lo metto penso wow, cioè quando finisce penso wow, cioè proprio un grande. Ma tu hai l'orecchio assoluto? Ma quando mai? Ah, io sì, invece, vedi, forse per quello. Poi fa cadere una penna. Ma quando fa cadere una penna? Com'è che non facciamo il programma con lui o quello? No, te lo dimostro, dire. Vai. Si bemolle. È sicuro si bemolle anche per i nostri ascoltatori che hanno tutti l'orecchio assoluto. Ci ascoltiamo il disco ai prezzi, i pezzi chiamati che sono tutti continuum e sono tutti numerati. Noi ascoltiamo il continuum 6-7. Nala Sinepro. E finisce Nara Sinepro con il suo Continuum Six. Ma che atmosfera! Terza scelta. T'ho detto. Si respira proprio una splendida atmosfera con questo disco. Terza scelta di Pink per questa, per questo Best 2024, congiunto, mischiato, mescolato tra Note, Cose, Città e Likewise. Ale, perché abbiamo delle cose comunque insieme spesso, cioè abbiamo dei gruppi, delle artiste, delle... non credo. Ale, ma non è vero, non abbiamo nulla da spartire. Allora, dove era arrivato? Sì, io è proprio antinatalizio. Dunque, il Cure l'abbiamo presentato, giusto? L'abbiamo presentati, sì. Ok, allora, ah, ecco, quindi, giusto, siamo al mio quarto posto. Allora, io il quarto posto comunque lo metto nel podio a pari merito, perché è veramente difficile. Fai come vuoi. Fare la posizione. Sentiti dei libero. Primi quattro. Allora, al quarto posto per me ci sono i King Gunna, l'abbiamo ascoltati e presentati prima abbondantemente. Ah, per questo stai a fare il furbo. Non mi soffermo. Al terzo posto Vampire Weekend, Only God Was Above Us, uscito il 5 aprile per la Columbia e Sony. E andiamo al secondo posto, cominciamo a tirare giù i pezzi da 90. Allora, Billy Ryder Jones, Laked Da, 12 gennaio, Domino Recording. Dunque, partiamo da un dato di fatto, anche qui molto oggettivo, nel senso, se i Cure erano il ritorno del 2024, qui c'è il singolo dell'anno, senza certo. Se e senza ma, oggettivo. Non assolutamente certo. Oggettivo, non c'è da discutere. Il singolo dell'anno è la canzone che ci ascolteremo, che è This Can't Go On, e sono contento anche che nessuna di voi ha nulla da dire in proposito. L'autore, l'abbiamo detto, è Billy Ryder Jones, l'album che contiene questo pezzo che definirei epico. Il disco si chiama Leg Da, è scritto in gallese e significa buona salute. L'album gode senz'altro dell'esperienza che l'autore ha fatto negli ultimi anni, soprattutto in ambito di produzioni musicali. Lui stesso lo ha definito il suo disco più prodotto, a cui si è dedicato nei suoi studi a West Kirby, ed è sua stessa missione di Ryder Jones. È un disco dove convive gioia, intimismo, disperazione, ed è anche molto interessante come questa ispirazione musicale viene da un mondo che è molto diverso da quello dell'artista, ovvero viene dall'hip hop, perché lui ha ascoltato tantissimo hip hop negli ultimi anni e dice che si è lasciato anche trasportare da questo approccio fatto di campionamenti. E dal punto di vista dei testi, Legda è un disco di speranza, dopo anni difficili in cui Billy Ryder Jones questa speranza l'aveva un po' persa, riversata nei suoi album, ha detto che aveva proprio un bisogno di fare un disco del genere, disco che a mio parere gli è riuscito perfettamente, e noi ci ascoltiamo la traccia più bella del 2024, che è This Can't Go On, Billy Ryder Jones. some kids. I wanna be your dog. Vabbè, potevamo pure chiudere qua. Vogliamo andare avanti con la trasmissione? No, vorrei farvi notare che i vostri pezzi durano un botto, mentre i miei pezzi durano molto di meno, quindi mi prendono un po' di tempo alla fine. No, scherzo, scherzo. La terza mia selezione di questo Best 2024, Note Cose Città versus Likewise, prevede una band che viene dalla Florida, loro si chiamano Gougeaway, si formano nel 2012, non si aspettava anche nel loro caso che sarebbero riusciti a fare questo terzo album, invece ci sono riusciti, si chiama Deep Sage, secondo me è un album bellissimo, loro in qualche modo rappresentano anche, mi permettono anche di raccontare una cosa che mi piace molto e che è successa negli ultimi due anni, e cioè che alcuni stili, alcuni generi musicali, alcune sonorità che prima bazzicavo di meno, quest'anno invece mi piacciono di più, ed è una cosa bella della musica anche questa, no? In qualche modo gli ascolti che facciamo sia per i nostri programmi, ma in generale perché comunque di musica tutte noi viviamo e che ci aiuta a vivere un po' più con un po' più di serenità e di felicità, certe volte cambia, e questa è una cosa bella, quindi loro sono voglia più di certe volte. Io se penso alla musica che ascoltavo quando avevo 16 anni e quella che ascolto oggi, cioè ho cambiato tantissimi ascolti, e quindi insomma loro sono Gougeaway, il pezzo si chiama Stuck in a Dream. Questa volta con un tripudio di feedback. Finisce Gadgeway, che tra l'altro è il titolo di una canzone dei Pixies che quando è uscita penso che loro c'erano 2 anni. Oh, intanto scusami che è arrivato un messaggio e salutiamo Celestino da Primavalle che ci dice: bellissima scaletta, complimenti per Billy Ryder Johnson. Da Primavalle. Sì, okay. È un quartiere qua a Roma. Sì, sì, no, no. È che ci ascolta da Primavalle, che dobbiamo fare. Allora, proseguiamo la classifica di Fabio, che al terzo posto vedeva Ike Inganna, Big Swimmer. Al secondo posto anche lui c'è Billy Ryder Jones, Yeki Da. E al primo posto, top 10 2024 Best Album per Mr. Fabio Note Cosa Città, NJ Lenderman, Manning Fireworks, etichetta Anti, data di uscita 6 settembre. Vado a leggere quanto il mio socio vuole che io esponga. Angel Lenderman, dopo il sorprendente bot song del 2022, questo Manning Fireworks, pubblicato da un'etichetta di peso come Anti, rappresenta il definitivo salto di maturità per il cantautore e chitarrista di Asheville, già membro di una band importante sulla scena indie statunitense come i Wednesday. Magnifico musicalmente, l'album è un lavoro straordinario anche nelle piccole e grandi catastrofi umane che il musicista è capace di mettere in fila. Lenderman non ha mai nascosto i suoi muti musicali, le sue stelle polari, il Neil Young elettrico, gli indimenticati David Berman e Jason Molina. Nelle 9 canzoni in cui si compone il disco li ritrovate e come, ma non c'è mai l'idea di plagio, piuttosto quella di una tradizione da proiettare nel futuro. È un album a cui si comincia a voler bene subito, ma poi non se ne può fare a meno e dopo ancora diventa uno dei tuoi migliori amici. È difficile scegliere una sola canzone, ma andava fatto, e la traccia che ha scelto è She's Leaving You. Lui è MJ Lenderman. MJ Lenderman, She's Leaving You, miglior album 2024 per Fabio. Ah, visto, vedi, ci eravamo preoccupati che non saremmo riusciti a finire. Mica abbiamo finito, vai, pianta, vai. Non lo dire, vai, parti. Comunque, sono le 20:27. Grazie per i messaggini, ed è molto divertente il fatto che l'incrocio delle nostre classifiche riesca poi ad accontentare un po' tutte e tutti e tutte. Quindi, insomma, è divertente questa cosa, perché mi arrivano appunto, ah, questa l'avrei messa, ma... Bene. Vedi, carino questo fatto. Allora, sono le 20:28, dirò il primo disco della mia classifica, quello che ho messo, insomma, diciamo, al primo posto. In realtà non c'è un reale motivo, probabilmente non è nemmeno il più bel disco dell'anno, ma è il più bel disco dell'anno per me. E te vale poco. No, nel senso che ha delle motivazioni un po' diverse per cui sta lì, e sono principalmente due. Intanto il disco è quello di Emiliana Torrini, che è Miss Flower, che è uscito a giugno. Quando stavamo iniziando a preparare le scalette, insomma, pensando alla nuova stagione di Likewise verso fine agosto, inizio settembre, parlavamo un po' di questi dischi che ci eravamo persi tra l'inizio dell'estate e l'estate, e io avevo commentato dicendo, ma no, ma dai, Emiliana Torrini, quindi, insomma, non mi ha mai convinto troppo, e sono stato punita perché chi sputa per aria si sa in testa gli ricade. Poi in realtà ho iniziato ad ascoltare questo disco, devo dire di averlo ascoltato, riascoltato e penso di averlo ascoltato per tutto settembre e oltre, ed è stato un disco che in realtà mi ha accompagnato in un settimane molto complicate per me, perché questo settembre è morta la mia gatta che aveva 15 anni e mezzo, e questo disco, non so per quale ragione, che non è una ragione che ovviamente attiene al razionale, però mi ha fatto una compagnia e una consolazione incredibile. Per questo per me è il mio disco dell'anno. Emiliana Torrini, Miss Flower. Your lawn, it remains a labelless of love, but the need to be around you, and the grass keeps growing and so needs cutting, so I'm there for the doing, and I go backwards and I go forwards, striping my way to the borders, looking at you through the window. I want to taste your lips, feel your hair, I wanna breathe you. Taste your hips, taste your skin, I wanna own you. Taste your mouth, taste your fingers, I wanna love you. Taste your breath, taste your sweat, let me adore you. Now I try to imagine you, a wine, what sort you'd be and how I would describe you. I read the wine you come from grows on hot land. There's a heat running through your veins, I feel it now in mine. These vines a sensation, now wouldn't you agree? Miss Flower, I want to taste your lips, feel your hair, I wanna breathe you. Taste your hips, taste your skin, I wanna own you. Taste your mouth, taste your fingers, I wanna love you. Taste your breath, taste your sweat, let me adore you. Any better? No. What more can I learn but from the master? Labels can be extremely helpful to the initiated and bewildering to the newcomer. So remember, Miss Flower, be gentle with me. A few delicate sips to start with before I drink my glass dry. To appreciate the vintage, to enjoy the richness and fruit to the full, could well take several hours, if not days, or much longer. Your answers whispered in my ear. Welcome, I want to taste your lips, feel your hair, I wanna breathe you. Taste your hips, taste your skin, I wanna own you. Taste your mouth, taste your fingers, I wanna love you. Taste your breath, taste your sweat, let me adore you. taste your lips, feel your hair, I wanna breathe you. Taste your hips, taste your skin, I wanna own you. Taste your mouth, taste your fingers, I wanna love you. Taste your breath, taste your sweat, let me adore you. Allora, sulle note di Emiliana Torrini. Ah, Torrini, certo, Emiliana Torrini. ho avuto un lapsus. Sulle note di Emiliana Torrini vado a esporre il gradino più alto della mia classifica. È stato molto difficile individuare questo primo posto, come detto, è stato molto difficile assegnare un ordine ai primi quattro album della mia classifica. La scelta è andata alla vincitrice, Michelle De Geocello. Il disco si chiama No More Water, Gospel of James Baldwin, è uscito il 2 agosto per la Blue Note Records, e quantomeno perché, al di là della bellezza musicale del disco, qui c'è anche un lavoro incredibile, un lavoro di recupero sull'opera di un grande intellettuale che è James Baldwin nell'anno del centenario della nascita. E No More Water ne celebra infatti la vita e l'opera, prendendo ispirazione dal libro di Baldwin The Fire Next Time, e trova le sue radici già nel 2016, quando l'Andè Geoncello si cimentò in un omaggio teatrale di Baldwin dal titolo Can I Get a Witness. Se il tema dei diritti civili sono la base dei testi del disco, abbracciano la storia afroamericana dagli anni della schiavitù fino al più recente movimento il Black Lives Matter, e musicalmente No More Water è un caleidoscopio di sonorità che vanno dal soul al jazz all'afrobeat all'elettronica fino allo spoken word, e non potrebbe essere diversamente per un artista che, dopo aver, come abbiamo visto anche qualche settimana fa, Note Cose Città, diede inizio al sound del neo soul e che ha fatto dischi di alternative hip hop, alternative jazz, vincendo premi, ricevendo tantissimi riconoscimenti. Sono 17 canzoni, o meglio sono 17 episodi. Noi abbiamo scelto di ascoltarci questa On the Mountain, Michelle De Geocello. God made his face, made his hands, made his mouth, that black griot tongue spitting out a call to revolution, not a revolution of blood, but of the mind and hands, that which builds, not destroys, that which lives in faith, not in the untruths of the world. God made his face, and in that face, the revolution that was his real mouth, the ferocity of truth in his eyes, his hands, these stories, with him and in us. Gather your hands, your stories. It's a Questo perché finiva bello potente. Questa è Radio Onda Rossa. Non me l'aspettavo. Questo è il Best 2024 di Note, fammi salutare cose, città e Likewise mischiati, mescolati, arruffati insieme. Ale, dici tutto. No, dico fammi salutare Fiammetta da Boccea che ci ha chiamato, le rispondo in diretta, si è messa all'ascolto solo adesso, ci fai complimenti, vuole sapere se mettiamo il disco di Billy Ryder Jones. No, l'abbiamo appena passato, peccato. Cioè il miglior disco dell'anno. Il miglior disco, certo, il miglior singolo dell'anno. L'anno, certo. Invece la mia selezione che arriva adesso è una band che arriva da Washington DC, anche loro fanno post punk art rock, è il loro album di debutto che secondo me è veramente strepitoso, forse il miglior album di debutto di quest'anno, si chiama Pink Balloons l'album, loro sono Echo Astral, il pezzo che ho scelto per voi si chiama... Però il miglior album d'esordio per te. Mio, cioè, non è oggettivo in assoluto. Tra l'altro, insomma, la loro musica è veramente un punk sporco, grezzo, rozzo, distorto. I testi della frontwoman Jill Holtzman parlano della eteronormatività obbligatoria, del binarismo obbligatorio, soprattutto della società americana, ma non solo. Quindi delle liriche creative, divertenti, ironiche e fortissime. Quindi, insomma, vi consiglio di andare a recuperare questo album se non l'avete ascoltato e leggervi anche i testi. Loro sono Echo Astral, Head Empty Blues. I can see you shifting in your seat. I can see you shifting. We'll be right back. Boom. Oh, ma notavo che hai scelto tutti i pezzi brevi a differenza nostra. Come mai? Una scelta stilistica o motivi legati? Volevo fare un altro programma dopo, con il tempo che mi resta. No, perché secondo me tu hai scelto dei pezzi brevi, potevi anche sceglierne di più. Ormai è andata così, sarà per il prossimo anno. Non so se ne può scegliere di più perché sono le 20:46. Hai ragione. Quindi in linea di massima abbiamo ancora una mezz'oretta insieme prima che cominci Semilla sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Abbiamo finito, diciamo, queste top 10, però ci siamo riservati ognuno e ognuna di noi una categoria diversa per buttarci, insomma, un disco in più, visto che 4 ci sembrava. No, abbiamo scelto 4 categorie, certo. Fuori classifica. Io partirei con quella di Fabio. Donna, se ti va, me la leggi tu. Vado a leggere Best Album d'esordio, se non sbaglio. Esatto, mi ha scelto. Mio esordio, English Teacher. Il 2024, ci racconta il buon Fabio, è stato un anno segnato da tanti esordi importanti. Where We've Been, Where We Go From Here dei Frico, Scream From New York, New York dei Bean Stellar, Come and See dei Guerriers, ennesime stelle nascenti irlandesi, Prelude to Ecstasy delle The Land Dinner Party. Ma nello scegliere il più bello, per questo, per quanto mantenuto e soprattutto per quanto promette ancora, la scelta non poteva che cadere sugli English Teacher. Quartetto di Leeds, capitanato dalla cantante Lily Fontaine, il loro This Could Be Texas, pubblicato dalla Island e prodotto da Marta Scalogni, è stato accolto con entusiasmo dalla stampa musicale britannica, tanto da aggiudicarsi a settembre il prestigioso Mercury Prize, riconoscimento assegnato al miglior album pubblicato da artisti britannici o irlandesi, battendo due pezzi da 90 come Beth Gibbons, che ricordiamo è un altro degli album, cavolo, che, un altro disco che avremmo potuto scegliere e non l'abbiamo fatto, è la super favorita Charlie, già sapete. Noi ci ascoltiamo la title track dell'album, che si chiama This Could Be Texas. Loro sono English Teacher. It's the year of the ox. Dress me up and try to guess my weight. 800 people gathered at a fair. In the machine age. That's the wisdom of the crowds. The more, the merrier. Farmer and his pitchfork. Walk through the heather. I put it into verse, put it in envelope. I put it in a postbox. Someone puts it in your house. And that house is in a town. Thank me with a garden in my name. 'Cause I walked through the heather. English teacher. English teacher, sì, era insomma un... Ci eravamo distratti. Questo era diciamo, il miglior album d'esordio, quindi la categoria speciale che abbiamo inserito. Ognuno ha scelto la categoria che preferiva e tocca a te, Pinclo. Allora, io ho scelto la categoria dei live album, che non so neanche se esiste veramente, ma... questa storia dei live album, diciamo che è lunga nella musica, nella storia della musica, perché prima erano dei dischi molto, diciamo, pirata, nel senso che venivano addirittura chiamati bootleg, fino a che il mercato non ha sussunto pure la pubblicazione dei live degli artisti. Diciamo che registrare quel concerto specifico era una cosa che facevano i fan e le fan, che chi andava a seguire il concerto. E da allora ovviamente i live ne sono stati pubblicati tantissimi. Noi a Likewise non ne ascoltiamo molti, ma quest'anno ne citerei due che abbiamo messo. Uno è uscito un live di Alice Coltrane della Carnegie Hall, bellissimo, atteso, ripescato, ritrovato, quei nastri che vengono fuori da giri di magazzini, magari da traslochi di etichette discografiche. E l'altro live che abbiamo ascoltato è di un artista che abbiamo messo a Likewise, che si chiama This Is The Kit, che era il live al Minak Theater, questo posto teatro all'aperto nella scogliera della Cornovaglia, diciamo, quindi sul mare, e un'atmosfera molto bella che effettivamente, se il live poi è fatto bene, registrato bene, ti restituisce un po' quella situazione, quella giornata, quel momento. E devo dire che questo disco lo fa molto, è un disco molto piacevole, anche perché l'ensemble è grande, ci stanno i fiati e è molto bello da ascoltare. E quindi lo annunciamo? Lo annunciamo, This Is The Kit, e il brano non ce l'ho sempre. Slider. We'll start and see what happens. Questa era diciamo la categoria speciale scelta da Pinklo, miglior live album, quindi insomma registrato dal vivo, sicuramente in uno scenario fantastico. Se vi siete persi la puntata in cui lo raccontavamo, comunque andate a recuperare l'album e magari andate ad approfondire dove si trova questo posto e come è stato costruito. La mia diciamo categoria speciale è stata difficile, anche questo molto difficile da scegliere, però molto spesso ci capita a Likewise di proporre band appena uscite sulla scena musicale e che spesso si propongono con una raccolta, una manciata di singoli che si raccolgono in quello che si chiama EP. Quindi la mia categoria è migliore EP di quest'anno. In realtà il migliore EP di quest'anno non è di una band nuovissima. In sottofondo ascoltate una delle selezioni che avrei voluto mettere, cioè Wisp, che con l'EP Pandora è stata uno dei miei tormentoni di quest'anno, ma c'è anche The Great Blowout di Moon Mother, che è un EP bellissimo, bello, da recuperare. C'è Eternal di Sweet Pill, c'è Persona della band Gel, c'è Antagonistic della band britannica The Menstrual Cramps, insomma tantissime possibilità in realtà, è solo per citarne qualcuna. Alla fine ho scelto lei, quella che vi sto per presentare, un po' perché la adoriamo, un po' perché qualsiasi cosa fa è veramente oro e ci fa... Un po' perché non riuscivamo a tenerla fuori, sì, dalle, esatto, classifiche. Non volevamo tenerla fuori quest'anno da questa classifica. Lei è la unica e inconfondibile Little Sims. Drop 7 è il titolo dell'EP, Mood Swing è il pezzo che ho scelto. I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Don't be scared of us, can't be defined. Pounds never sharp on CP time. I just wanna dance on CP time. How many of them did I leave behind? How many times did I make them know? Why they wanna disrupt, kill my flow? How many times did I switch time zone? But the LD will always be home. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Oh, you scandalous. jealous, what did she find? Nothing but a text and a boy she mind. Blow it all up on CP time, cause you went out like the way he described. How many times did it all occur? If you got a pick, then you better choose her. Passers by wanna see the pot stir, then the mood gets swung in reverse. Cause I've been all around town, bass thudding, drown. There's these sounds coming. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Eccoci, sì, di nuovo in voce senso. Qui a Radio Onda Rossa per il Best 2024 Note Cose Città versus Likewise. Siamo arrivati agli sgoccioli. Allora, intanto fatemi ringraziare come Note Cose Città, ma anche per questa, diciamo, trasmissione. Martina, ne posso fare disegnetti, che ha arricchito durante il 2024 le nostre pagine social. Ha il contatto di scadenza, tra l'altro, stiamo lavorando per il rinnovo nel 2025 e ha anche fatto il disegno bellissimo che trovate su vista tutti i nostri canali. Vista abbiamo... l'urgenza, tra l'altro, veramente chiesto il disegno, il rinnovo mi sembra eccezionale. Grazie dovuto. Marti. Anche noi ringraziamo la nostra, certo, la nostra ragazza immagine. No, la nostra che ci fa la nostra immagine, esatto. Che non siamo noi due, ma è la nostra grafica. Che è stata una grande delusione quando mi avete detto che non eravate voi a farle. No, perché non si era sentito, vai. Che cosa? Il nome della nostra ragazza immagine. Allora, andiamo a chiudere, come tutte le trasmissioni musicali che si rispettano, bisogna anche fare un piccolo ricordo di alcuni artisti che ci hanno lasciato nel corso del 2024. Io me ne sono segnati, devo dire, non molti, sarebbe insomma abbastanza noioso un elenco del genere, però alcuni nomi importanti, perché poi hanno segnato la storia della musica, la storia del rock. Wayne Kramer degli MC5, Amsto Barrett dei Wailer, Chris Cross degli Ultravox, John Mayall, Sergio Mendes, il rapper K, che è morto a novembre se non sbaglio, Paul Di'Anno, il grande, grandissimo Quincy Jones e due giganti del jazz, Lou Donaldson e Roy Haynes, morti se non sbaglio a 99-98 anni, una cosa del genere, e naturalmente Steve Albini, che è scomparso lo scorso 7 maggio. A lui, come Note Cose Città, abbiamo già dedicato una puntata, un'altra gliela dedicammo qualche anno fa, ma per quella che è proprio l'impronta della nostra trasmissione ci è sembrato giusto rendergli un ulteriore omaggio, anche perché quest'anno i suoi Shellac sono tornati con un gran bel disco uscito, ahimè, appena 10 giorni dopo la morte di Albini. Poi altri omaggi ben più importanti del nostro sono stati fatti dai festival musicali in cui quest'estate gli Shellac erano in cartellone, e un altro molto bello gliel'ha fatto la sua Chicago, sua non per nascita ma perché è lì che ha radicato la sua musica, intitolandogli una via, la Steve Albini Way, che è la stessa via dove si trovano i suoi mitici Electrical Audio Studios. Noi in sottofondo, me la fai sentire un pochino la canzone in sottofondo? Ecco, ci ascoltiamo i Fax, che è un brano appena pubblicato che anticipa un album in uscita nel 2025, e ce l'ascoltiamo perché è l'ultimo lavoro di Albini dietro a un mixer. Il disco è stato terminato seguendo proprio gli appunti che Albini ha lasciato prima di morire. Il nostro ascolto invece va all'Albini musicista, e quindi torniamo al suo ultimo disco con gli Shellac, che il disco si chiama Two All Trains. Il brano è quello che chiude il lavoro, tra l'altro con un titolo che ci ha lasciato senza parole quando uscì l'album, quando leggemmo anche l'elenco delle tracce, si chiama I Don't Fear Hell. Questo è il nostro omaggio a Steve Albini. Io ho concluso. Ringrazio Likewise. Te ne vai? Possiamo ascoltarla? Per l'ospitalità. Perché non sono abituato a parlare dopo l'ultimo pezzo, ma possiamo farlo. Intanto io ringrazio anche a nome di Fabio, che saluto, che è stato insieme a me per tutto il 2024, ha perso le ultime trasmissioni, spero di rivederlo presto il suo faccione davanti alla console, e non so se avete ringraziamenti anche voi, ma noi li faremo dopo. Li faremo dopo. Shellac, Adolf Firel, Steve Albini. E fino alla fine questo pezzo che diciamo chiude l'omaggio alla band Shellac, in particolare alla figura di Steve Albini, che anche insomma Likewise ha ricordato tra l'altro anche recentemente uno degli album grandi esclusi da parte mia di quest'anno, ma che in realtà è nel mio cuore, che è l'album di Kim Deal, uscito pochissimo tempo fa, è anche quello una delle ultime diciamo produzioni curate da Steve Albini, insomma da insieme a una compagna di musica come Kim Deal, che tante volte è stata a lavorare insieme a lui, e quindi insomma sì, ci uniamo a questo bel ricordo. Ma comunque il ricordo di Steve Albini resta, perché sono talmente tante le band, i dischi e le sonorità in cui ha messo mano, che inevitabilmente lo ritroveremo sempre. Questa puntata, questo mash up, questo mischione, Note Cose Città e Likewise, che vi ha raccontato un po' delle cose più belle di quest'anno secondo noi, finisce qui. Noi vi ricordiamo intanto che dopo di noi ci sarà Semiglia, musica dal mondo. Non so qual è lo sai tu il programma, qual è il tema di questa settimana, non lo sappiamo, ma insomma siamo impreparate tutte quante, ma restate voi all'ascolto e lo scoprirete e ce lo racconterete. In sottofondo c'è Reina Tropicale, che tra l'altro è uno degli album che è rimasto fuori quest'anno, ma Allegria, e mi dispiace anche perché abbiamo messo tutta musica in lingua inglese, ma in realtà quest'anno abbiamo ascoltato anche tantissima musica non in lingua inglese, come questo in sottofondo. E che altro dire, vi ricordiamo l'appuntamento di martedì 31 dicembre alle ore 10 sotto il carcere di Rebibbia, per dare solidarietà alle persone recluse. Tutte le informazioni le trovate come sempre su ondarossa.info, così come anche la puntata che abbiamo fatto questa sera, che sarà più lunga del solito, sarà doppia, però insomma potrete riascoltarla quando volete. Sì, ricordiamo anche che alle 23 c'è Morfire su Radio Onda Rossa, Morfire che sarà protagonista insieme a tantissimi altri artisti della Bass Connection per Radio Onda Rossa, che si farà questo sabato 21 alle 22 al centro sociale occupato, autogestito, transfemminista Aura e Marco, a Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268 a Spinaceto, Roma. Quindi se cercate le scarcerande, se volete farvi una bella serata, se volete sostenere Radio Onda Rossa, ci vediamo lì, oltre appunto poi al 31. Cercate anche sul sito della radio le presentazioni della scarceranda, perché ce ne stanno in giro per la città e anche qui a San Lorenzo, e così potete un po' recuperarla. Sono le 21:14. Senti, prima che parte la canzone finale che presenterei tu, vogliamo consigliare già. vorrei anche non so se volete farlo anche voi, tre libri, visto che siamo noi non leggiamo più niente. Ah, voi non leggete più. Sei chiusa a riccio, visto che comunque è un periodo in cui salutiamo anche Tabula Rasa, può ciao. Servire regalare qualche libro di musica. Io ne ho tre da consigliare. Uno è la biografia di Kurt Cobain, di cui abbiamo parlato, anche gli abbiamo dedicato una puntata, non mi ricordo in questo momento il titolo. Un altro letto da pochissimo, che è uscito per Il Saggiatore, che è una biografia di Robert Johnson, che è qualcosa di incredibile, si chiama Il Diavolo Probabilmente. E un terzo libro che sto leggendo adesso, che è molto affine poi alla nostra trasmissione, perché racconta luoghi, diciamo, da quelli più famosi anche un po' più particolari, che si chiama I Muri del Suono di John Martin, uscito per La Tsunami. E niente, se volete regala un libro, e vi ho buttato là tre titoli. E guarda che ce l'abbiamo uno pure noi. Dai. E allora a questo punto ve ne suggerisco uno anch'io, però ancora non tradotto in italiano, ma che vale la pena di procurarsi. I Live Inside, Memorie di una Babe in Toyland, e non c'è bisogno di spiegar nulla. Vabbè. Mentre Remy Wolf, una delle nostre amate, fa questa cover di Last Christmas, noi vi salutiamo. Non so Note Cose Città, ma sicuramente Likewise si ferma qualche settimana. Pure noi. Per tornare dopo la pausa, insomma, natalizia, perché siamo sempre appunto migranti tutti quanti. E alcuni meno privilegiati, alcuni più privilegiati, sì, come noi, però sempre dobbiamo ritornare. Grazie Note Cose Città di averci ospitate nel vostro spazio, di essere insomma. Comunque è figo il vostro orario, eh? È più figo del nostro. No, non lo avrete mai. Sì, facciamo a cambio. Non l'avete mai. Tira su questa canzone, non l'avete mai.